Ecco, signori, alziamoci in piedi per accogliere l'ingresso degli sposi. Un applauso a Rosanna e a Mario. Auguri agli sposi. Fantastici i nostri sposi, eccezionali.